my hat. Te quemas, te quemas, no toques que te quemas. Si mueves ese bum bum bum bum, te va a ser un problema. Te quemas, no toques que te quemas. Yo sé que ese bum bum bum bum, la envidia para las nenas. Cuando baila mueve el culo, aquí uno posa. Te toque, me lo vuole, mover a dos. Fuerte solo con me, la faccio impazzire. Mi ricorda sempre che c'è il c***o grosso. Ha detto che vuole fare una cosa trend. Proviamo una tot e la portiamo via. La portiamo in hotel, mica a casa mia. Facciamo girare questa economia. Quindi boom boom boom, già sei con me. Ha detto che non ne fanno più come me. Per me sono tutti lame, sono tutti barbie. La mia tipa twerka forte, tu cazzo.